Ma è troppo lontano, sento un po' basso in radio. Ma lei, se qua in zona sento bene. Perché in zona, capito? Yeah.